24 di Giovanni Minoli. Nella corsa alle presidenziali statunitensi è il momento dei numeri. Tra Hillary Clinton e Donald Trump la situazione è ancora incerta. Donald Trump è stato brevemente allontanato dal palco per ragioni di sicurezza durante un comizio a Reno in Nevada in seguito a quella che era stata identificata come una potenziale minaccia proveniente dalla platea. La risalita del tycoon è iniziata, avrebbe superato dell'1% la rivale. Troppo tardi però, dicono gli esperti, per dargli reali chance di vittoria. Hillary Clinton si è dal canto suo affidata alla popolarità della cantante Katy Perry per ritrovare lo slancio che in base ai sondaggi starebbe sempre più perdendo. Sono gli ultimi preziosi momenti in cui i candidati approfitteranno per convincere quello che resta degli elettori indecisi, che hanno fino a martedì per mettere la loro scheda nell'urna. Buongiorno, professor Alberto Quadro Curzo, buongiorno, benvenuto a Mix 24, la ringrazio. Grazie a lei per l'invito, molto gradito. Senta, domani dunque si vota per il presidente. Intanto, prima di tutto, possiamo anche dire che questo è il più grande spettacolo del mondo, in un certo senso, come dice il mio amico Mario Secchi, perché dura un anno e sembra una lunghissima telenovela, no? È così, è una grande telenovela che per noi europei rappresenta anche, almeno per certi tipi di europei, un fattore sconcertante, perché le nostre campagne elettorali, pur essendoci alcune caratterizzazioni estreme, sono tutte molto oggettivamente paludate, ragionate, possono piacere o no, ma certo non sono una manifestazione così eclatante di rapporti coi media e metodi di varia natura per essere all'evidenza e poi essere lenti. E poi, professore, non solo, ma c'è un dato sconcertante, che una democrazia che per scegliere il suo capo costa miliardi e miliardi, probabilmente chi vince parte già un po' vincolato. Non c'è il minimo dubbio, è qualcosa che appunto nel continente vecchio, come si dice qualche volta, è assolutamente inconcepibile e invece nel nuovo mondo è regola. È la regola. Naturalmente poi staccarsi da questi vincoli non credo sia molto, molto semplice. Ecco, comunque diciamo, per entrare nel merito, professore, qualcuno dice che queste sono le elezioni più importanti di tutte perché in realtà dalla caduta del muro di Berlino è cambiato lo scenario geopolitico del mondo e i due protagonisti delle elezioni rappresentano due cose molto diverse. Uno l'establishment e l'altro, diciamo così, il popolo, no? Sì, più o meno. Sì, e c'è questa cesura fortissima. Ma con lei vorrei analizzare dal punto di vista economico i programmi per capire se poi alla fine c'è una differenza, quali sono le differenze. Cioè la Clinton, per esempio, la sua proposta più qualificante qual è? Ma io credo che all'interno per la politica economica degli Stati Uniti lei sia molto più favorevole alla promozione di una eguaglianza sociale, o più che eguaglianza sociale, minori differenziazioni sociali, una promozione sempre in questo contesto della parità dei diritti delle donne, in particolare delle donne di colore, e poi una linea interventista secondo me su due fronti, quella degli investimenti in infrastrutture, quindi più energia pulita ma non abbandono delle fonti fossili, certo. E l'altra strada che già ci porta nel contesto internazionale un favore ai trattati internazionali, NAFTA e quello con l'Europa, ma non una forma così accentuata di favore come era quella di Obama. Quindi moderazione su quella linea. Molta moderazione, credo che la linea Obama di grande apertura e di grande intrapresa per stabilire dei rapporti con l'Europa molto molto liberali non sarà ripetuta. Quindi, dall'ultimo c'è la Cina, e la Cina, certo, rimane un grosso problema su cui le differenze tra Trump e la signora Clinton sono molto meno marcate. Ecco, ma Trump invece dal punto di vista delle sue proposte economiche, a parte l'isolazionismo dichiarato, le conseguenze economiche di questa ipotesi isolazionista quali possono essere e comunque quali sono le sue proposte? Beh, Trump ritiene che un abbassamento generalizzato delle tasse possa produrre di nuovo un effetto molto forte sulla crescita. Cioè alla Reagan, un po' alla Reagan. Esattamente, un po' alla Reagan, tenendo però conto che è difficile ridurre le tasse e ridurre, come lì dice, anche il debito e il deficit. Certo. Ha una visione un po' troppo spontaneista sulla forza del mercato e su una chiusura abbastanza marcata nei confronti dell'estero. Poi, per quanto riguarda le fonti energetiche, lui ritiene che la questione come dire, del surriscaldamento climatico sia più o meno qualcosa di molto esagerato, se non addirittura qualcosa di inventato. Esattamente. Quindi lui è molto favorevole al petrolio, alle fonti fossili. In talune valutazioni ha persino detto che lui vuole smantellare l'Environmental Protection Agency, che non serve assolutamente a nulla. Ecco, professor Curzio, ma che cosa cambierebbe per gli Stati Uniti se dovesse vincere Trump nello scenario geopolitico? È difficile dirlo, ma insomma, perché sì, poi i presidenti cambiano quando diventano presidenti, però è insomma. È giusto. Ma innanzitutto la premessa è che sia Trump che la Clinton ereditano da Obama un'economia che va bene, tutto sommato, certo, un'economia che è stata in crisi un anno, noi in Europa siamo in crisi da 7 anni, quindi omaggio a Obama perché tra lui e la Fed hanno fatto un'operazione splendida. Ecco, per quanto riguarda Trump, stando alle parole, anche se è vero che poi cambiano, secondo me ci sarebbe un fortissimo irrigidimento nei rapporti internazionali economici, sia con riferimento all'Europa, non tanto per raggiungere dei punti di rottura, ma per chiarire bene all'Europa che l'America è l'America, l'Europa è l'Europa. E quindi incidenza immediata sulla NATO. Penso anche. E poi con la Cina, secondo me, si potrebbe arrivare a un rapporto molto molto teso. Molto teso, perché lui punta su Putin. Punta su Putin e continua a dire che la Cina è pressoché criminale nelle sue manipolazioni monetarie, che francamente io non riesco a vedere bene, perché il passaggio di una moneta come quella cinese, in termini di parità dal punto di vista delle transazioni finanziarie, alle altre due grandi monete, dollaro ed euro, non è semplice, ma la Cina ci sta provando, ecco. Ci sta provando, credo, meritoriamente. Senta, il premier Renzi si è schierato con Clinton in modo esplicito e molto molto significativo. Obama ha appoggiato il referendum di Renzi. Non è un po' un'imprudenza di Palazzo Chigi uno schieramento così? Perché nel caso in cui vincesse Trump, poi bisogna fare marcia indietro e trovare delle strade. Sì, credo che questo schieramento netto sia dovuto a due fattori. Uno, il fatto che tra Renzi e Obama si è creato un rapporto particolarmente interessante, di grande stima, e questo di per sé ha immediatamente incanalato la valutazione di Renzi sulla Clinton. Certo. Quanto alla modalità espressiva, sappiamo che il presidente Renzi difficilmente usa delle metodologie sfumate per esprimere il proprio punto di vista, e quindi Renzi Obama, è stato esplicito, quindi poi vedremo. Intanto, professore Curzio, per la prima volta dall'inizio degli anni 90 il commercio mondiale però arretra. La globalizzazione mal gestita è stato comunque il cavallo di battaglia della campagna elettorale di Trump. In questo però il candidato, certamente al di là del risultato che avrà, ha visto un problema proprio di fondo delle società occidentali. Sì, non c'è dubbio. E uno degli elementi di questo arretramento è anche il fatto che si stanno aumentando significativamente, ma non tanto da compensare il rallentamento della globalizzazione, quelli che si potrebbero definire i rapporti sud-sud. Quindi si sta in un certo qual modo anche ridisegnando la globalizzazione, mentre prima era soprattutto il nord sviluppato che andava verso paesi emergenti a basso costo del lavoro e questi poi paesi emergenti rimandavano sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo prodotti di bassa qualità, adesso i paesi del sud con il perno della Cina hanno accentuato i loro rapporti commerciali, quindi si sta in qualche modo non riducendo la globalizzazione, ma segmentando ecco. Con un sud che opera più, con avendo un pivot potente come la Cina, che opera più su se stesso, certo, e non certo. più tanto col nord. Infatti, come lei ha visto, diverse, esatto. è di lì il discorso che lei faceva sulla moneta cinese. Esattamente. Ovviamente. Infatti, lei ha visto anche il cosiddetto reshoring, cioè imprese che erano localizzate in paesi emergenti che ritornano a casa. Indietro. Senta, un'ultima cosa, professor Curzio. Obama però non aveva capito che la Brexit stava arrivando. Ecco, come influisce sugli Stati Uniti questo ritorno alle nazioni? Lei un po' l'ha detto, diciamo, per macro aree, se ho capito bene, però sì, il problema è anche più proprio nazionalistico. Come si ridisegnano le relazioni transatlantiche? Per chiudere, grazie. Ma l'uscita dell'Inghilterra e della Gran Bretagna, anzi dalla Unione Europea, è certamente un fatto storico, ma forse la Gran Bretagna non ha calcolato bene, quantomeno nella impostazione dei suoi politici apicali, che agli Stati Uniti interessava molto di più una Gran Bretagna dentro l'Europa che certo. una piccola Gran Bretagna fuori dall'Europa. Certo, perché... Quindi se loro pensano di essere il pandan degli Stati Uniti, credo che si fanno delle illusioni. Senta, un'ultimissima cosa, Putin si è rivelato però uno stratega di alto livello. Obama va via, la Casa Bianca, arriva un altro, le relazioni con Mosca però sono al centro. In ogni caso, che vinca la Clinton o che vinca Trump, che ha già detto che cosa pensa, certamente saranno molto importanti, perché anche il Papa in questa partita è un attore significativo. Sì, è vero. Putin, dal punto di vista, diciamo così, geostrategico, ha dimostrato una capacità straordinaria, non voglio valutare adesso più approfonditamente, però ha in mano un'economia che è praticamente disastrata. Certo. Crollo del prezzo delle materie prime, embargo, quindi lui sta bilanciando il crollo dell'economia con la politica estera. Esattamente. Grazie. Che non è un cambio così semplice. Grazie professore, mi fa un pronostico, che cosa succede domani secondo lei, chi vince? Ma io credo che vinca la signora Clinton, anche se penso che negli Stati Uniti c'erano candidati migliori, ben più titolati per rappresentare una nazione così grande e potente. Grazie professore. 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Mario, tu che dici? Ma io dico questo, non mi fido dei sondaggi, la Clinton è favorita ovviamente, sarà però una corsa molto interessante, perché se Trump riesce a sfondare un muro degli stati blu, di anche solo uno, la cosa per esempio in New Hampshire, tanto per dire, allora la corsa si fa veramente complicata per la Clinton. Ah. Però vediamo, dovremmo aspettare tutta la notte, forse l'alba. Beh certo, Pietrangelo, tu mi fai un salamino? Provaci ancora, Jim Messina, il guru del Partito Democratico, che prende 400.000 euro per aggiustare la comunicazione a Matteo Renzi, no, ne indovina una, e devono perciò darsi da fare gli altri del Politburo a pensare meglio e come risolvere prima del 4 dicembre, che è la data del referendum plebiscitario, il problema dei problemi, che è, Giovanni, sai qual è il problema? Qual è il problema dei problemi? L'antipatia. L'antipatia. Sì, Renzi è antipatico. Ah. E quindi Jim. Ma l'ha detto lui ieri sera. E appunto, te l'ha ripetuto, eppure cattivo. Eppure impulsivo, cattivo, antipatico. Insomma, è peggio di arrogante. È peggio di Nino Taranto nel film, quello Il Monaco di Monza. Comunque, ieri si sono conclusi i lavori dei Soviet alla Leopolda. Ma il Soviet, dai. Avete ragione, troppo complimento. Avete ragione. Comunque lì c'era il problema di fare la celebrazione empatica dell'antipatico e proprio lì Oscar Farinetti, che è il patron di Italy, ha così parlato, anzi, ha così cantato. C'è qualche cosa in te che va diritto al cuore, simpatica sei tu. Simpatico sei tu, ha così cantato, anzi ha parlato, ha detto bisogna tornare a essere simpatici. Oh, dopo 2 anni a Palazzo Chigi si tende a diventarlo antipatici, quindi ci vogliono simpatia e argomenti vincenti. Bisogna dire, e l'ha ripetuto oggi in un'intervista sul Corriere della Sera, bisogna dire, continua Oscar Farinetti, che ci stiamo provando senza timore di far vedere che siamo impreparati, praticamente senza far capire che tanto non ci riusciranno. Comunque, lì la questione è sempre di Jim, e la fatica di Jim Messina è solo una. Qui è stato il gran simpatico. Il gran simpatico serve il nervo principale, è quello che comanda tutti i nervi. Quindi il gran simpatico, a me lui mi è antipatico, da vivo e da morto. Ma il gran simpatico gli ha fatto questo movimento. È il gran simpatico che ha fatto rivoltare l'antipatico. Esatto, lo vedi che ci sei? Lo vedi che cominci a capire qualche cosa? Io lo voglio vedere da vicino, a st'animale. È il gran simpatico che fa muovere l'antipatico. Agnese Landini, che è la moglie del premier, ormai è immancabile per neutralizzare la figura di lui, il cui calore, come sapete, si misura con l'hashtag tipo cancelletto stai sereno e uno si preoccupa. Ma lei, educata, discreta, elegante, è l'elemento squillante della comunicazione di Renzi. Nello storytelling, infatti, ha sostituito Maria Elena Boschi, che è stata la first lady effettiva negli anni dell'ascesa rottamatoria, mentre invece la professoressa Landini, che è sincera, simpatica, è la vera sorpresa ed è il Bengodi che fa vincere Renzi. E qui quindi torna la questione Jim Messina. Tu Jim Messina, questo guru della comunicazione elettorale, con la modica cifra di 400.000 euro ha fatto scoprire a Matteo Renzi che cosa? La moglie. Di essere sposato, certo. Gli ha risolto il problema. Ora, sapete che cosa si canterà alle feste dell'unità? Anzi, no, come si chiama? Alle Leopolde di tutto il mondo. Agli Happy Unite? Hour, comunque, non si è aggiornato. Happy Hour. Agli Happy Hour, sapete cosa suonano? Cosa suonano? Coi Casadei. Tu sei la mia simpatia. E quindi, caro Giovanni, ancora una volta il vecchio e il nuovo. Hai una bolla ancora? Sì, sempre americana. Oh, questa è la sigla di House of Cards, per essere chiari. No, perché io voglio dire solo una cosa, poi voglio sentire voi. Dilla. Io dico solo che queste, oggi abbiamo solo mezz'ora, queste elezioni americane hanno fatto passare per pivello Frank Underwood. È vero. E poi la realtà è molto superiore alla fantasia. Perché è successo di tutto. Cioè, veramente, per noi giornalisti è stata una manna, perché altrimenti non sapevamo cosa scrivere. Però forse per la democrazia americana c'ha qualche problemino, io penso. Non so cosa vuoi dire tu, Giovanni, e cosa vuoi aggiungere, Pietrangelo. Come tu sai, noi è da molto tempo che parliamo dei sondaggi truccati, che sono orientativi e sono uno strumento della campagna elettorale. Ma quindi, insomma, servono per essere elemento della sceneggiatura del racconto. Sì, e allora siamo in pieno House of Cards. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, io sono passato direttamente al giovane Papa, dove ho potuto godere di questo incontro tra il giovane Papa e il giovane Premier. E dove c'è il giovane Papa? Stanno insieme. Ma chi frega il giovane Premier? Ma chi è il giovane Papa? Enzo, non si è aggiornato. No. Sorrentino. Sorrentino. Sorrentino. Vabbè. Allora, il 4 novembre del 79, l'ambasciata americana, l'abbiamo detto in apertura, Teheran viene occupata e i 52 dipendenti diventano ostaggi. Inizia un giallo che tiene il mondo col fiato sospeso per 444 giorni, un intrigo internazionale che fa scoprire al mondo il lato oscuro del fondamentalismo islamico. Lo raccontiamo dopo la pubblicità. Intanto, Gloria Guerriera, cosa ha scelto per noi oggi? Oggi un invito ad aspettare, ascoltare e poi baciare. Fred Bongusto, Amore fermati. Amore fermati, questa sera non andartene, un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Amore baciami, siamo soli, amore baciami. Forse colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. E tutto senza lavori edili. Libera anche casa tua dall'umidità. Vai su muriasciutti.it. Muriasciutti.it. Domodrai, muri asciutti per sempre.